Storiacce. Le inchieste del 2016 di Raffaella Calandra. Dietro. Allora, 15 diviso 3. Ok? Però 1H. Senti, raccomando. Quelli di sì. E quelli là? Quelli là. 15 diviso 3. Qui siamo all'Aquila. Cambiano gli accenti, gli interlocutori e i codici, ma le stesse conversazioni si ripetono a Catania, a Catanzaro, si sono sentite in Puglia come in Campania e negli anni in altre decine di città e squadre di ogni latitudine e categoria, fino a lambire quella principale. Il calcio muove soldi e crea consensi, si sa. E nel dietro le quinte dello sport più amato del mondo alimenta giri clandestini di scommesse, partite vendute, calciatori comprati, tifosi traditi. Ma perché gli scandali si ripetono sempre uguali a se stessi? Dov'è la falla? Da qui allora parte questa puntata di Storiacce dagli spalti di uno degli stadi d'Italia. Francesco Baranca, segretario generale di Federbet, la Federazione Internazionale di Scommesse. Ma perché gli scandali del calcio si susseguono? Gli scandali si ripetono perché la mentalità non cambia. Che è una mentalità è volta all'arricchimento, mossa dall'avidità del guadagno? All'arricchimento, a un fenomeno di carattere sociale che è la mancanza di sportività nelle ultime giornate di campionato, perché in Italia è sempre stato così, cioè il meglio i due feriti che un morto, meglio pareggiare quando va bene a tutti e due, è sempre capitato. Non è mai cambiato, le pene sono state troppo miti, non ci sono state radiazioni e il calciatore che magari pensa di poter guadagnare, fa un rapporto tra costi e benefici e dice, beh, il rischio è quello, perché non truccare le partite. Ecco, questo abbiamo fatto un elenco di ragioni per cui, diciamo, negli anni, sia pur cambiando nelle modalità, questi vari fenomeni di scommesse illecite si sono ripetuti a tutti quanti i livelli, toccando grandi nomi del calcio, ma travolgendo anche società più piccole. E ciascuno di questi vicende meriterebbe un approfondimento, dalle pene non troppo alte alla mentalità, alla avidità che per giocatori strapaganti... Ma il fatto anche che moltissimi giocatori, sebbene strapagati, poi abbiano una propensione alla ludopatia che li porta a giocare cifre enormi, scommesse regolari, poi quando le perdite diventano anche più grandi di quelli che sono i bilanci degli stessi giocatori, i giocatori per rientrare si trovano, tra virgolette, costretti a truccare le partite. È lungo e variegato l'elenco delle ragioni per cui, secondo Federbet, le vicende di partite vendute e scommesse clandestine sono destinate a ripetersi, e per le stesse ragioni neanche i campioni più osannati e meglio pagati possono essere considerati al riparo. Anzi, da Calciopoli in poi le cronache abbastanza recenti hanno dimostrato come meccanismi uguali o simili si siano ripetuti anche in vetta alle classifiche di Serie A, ma è dall'estrema punta d'Italia, dalla Sicilia e dalla Serie B che arriva l'ultimo scandalo. 5 partite, forse 6, siano state truccate attraverso il pagamento di somme di denaro a giocatori. Varese Catania del 2 aprile 2015, terminata con il risultato di 0-3, quindi in cui il Catania ha vinto per 3-0. Catania Trapani dell'11 aprile del 2015, terminata con 4-1. Latina Catania del 19 aprile del 2015 con un risultato di 1-2, quindi il Catania ha vinto. Catania Ternana il 24-4 2015 terminata 2-0. Catania Livorno il 2 maggio 2015 con il risultato di 1-1. E si lavora su Catania Avellino del 29 marzo terminata con il risultato di 1-0. Vinceva il Catania Calcio, vinceva sia in casa che fuori e riusciva così a conquistarsi la salvezza, ma vinceva perché, secondo l'accusa, queste partite erano state vendute da giocatori divenuti treni da prendere, secondo le conversazioni intercettate dalla Digos Etnea. Tutti contenti, tutti soddisfatti, Sì. E vabbè, ma insomma la classifica, bene, bene. Oh. No, è la prima volta che il Catania ha avuto 25 ma partite in salto. Alle 13 parto. Alle 13. Ho fatto questa scelta. Quello delle 15, niente? No, perché ho dovuto fare una scelta, nel senso che in base, diciamo, alla situazione che aveva a disposizione non ce la facevo. Allora, andiamo nei playoff, andiamo! Usaccio, ma... Poi dopo ti racconto una cosa, è il numero, è avanti, 4 vittorie consecutive. Alla grande. Stiamo a volando. Volando. Tra gli arrestati per frode sportiva e truffa anche Antonino Pulvirenti, il patron del Catania Calcio, l'inventore della prima linea aerea low cost, la Winjet, poi fallita. Il dirigente che al telefono con aria trionfante diceva: ormai l'ho inquadrato il campionato di Serie B, l'anno prossimo arrivo primo. Parole che richiamano, almeno nei toni, quelle di Claudio Lotito, parole che potrebbero essere millanteria, ma che lasciano intendere una grandissima capacità di manipolare un campionato che è appena un gradino al di sotto di quello principale. In realtà, anche in questo caso, come in altri precedenti, le segnalazioni di sospette combin c'erano state, e a farle era stata proprio la Federbet, e questo è uno dei punti cruciali per cercare di capire perché gli scandali del calcio scommesse si ripetano sempre. Perché se le segnalazioni ci sono, ma nulla succede, allora bisogna un po' aspettarselo. Francesco Baranca. Questo è un fenomeno di carattere mondiale, aumentato dal fatto che la globalizzazione ha portato un interscambio di giocatori e con sé un propagarsi del virus, del fenomeno del match fixing enorme. Problema che riguarda il Canada, che riguarda il Portogallo, che riguarda la Svezia, riguarda Cipro, Malta, Lituania, Lettonia, Estonia, Bulgaria, Ucraina in maniera drammatica nell'ultimo periodo. Esiste un mercato dei giocatori che vengono pagati di più perché sono in grado di truccare le partite. Esiste una serie, solo per fare un esempio, nell'inchiesta di Catanzaro le notizie della Lega Pro venivano scambiate con risultati di basket in Serbia. Ecco, e a voi quanto spesso capita di osservare appunto numeri impazziti rispetto a partite regolari? In tutto il mondo al ritmo di uno ogni l'ora. Quindi tantissime, uno all'ora, tantissime. In tutto il mondo. E se volessimo riportare tantissime questa proporzione rispetto alle dinamiche in Italia, italiane? In Italia diciamo che quelle che abbiamo segnalato erano le più clamorose, ma si deve considerare che per esempio il campionato di Lega Pro, le ultime 3 giornate di campionato non sono state quotate perché il rischio di combine era troppo alto. Cioè, quindi non era possibile scommettere perché c'era un rischio perché troppo alto. Non volevano accettare il rischio di essere, tra virgolette, depauperati dalla combine. Ecco, quindi in Italia esiste un totale delle vostre segnalazioni in procura di scommesse sospette? Sono quelle di quest'anno, abbiamo denunciato circa una decina di partite di Lega Pro e 4 partite di Serie B. Nessuna di Serie A quest'anno? No, quest'anno no. Quanti casi avete segnalato in totale? Segnalati alla procura questi di quest'anno. Nei nostri report nel 2013, 2014, 2015 abbiamo segnalato più di 300 partite. Totale l'anno scorso Lega Pro e Serie B e l'anno prima un'altra ventina di partite. Quindi 300 partite segnalate in 3 anni, ma non in procura, a chi sono state segnalate? A quando facciamo il report presso il Parlamento europeo. Cioè voi negli ultimi 3 anni avete fatto circa 300 segnalazioni di sospette, di scommesse sospette in tutta Europa, esatto. In tutta Europa. E che cosa è successo dopo queste segnalazioni? Assolutamente nulla. E la reazione è stata la solita di sdegno, come è successo in Italia quest'anno, dicendo Federbet non capisce nulla. Se la sono presi con voi piuttosto che andare a vedere quello che voi segnalavate. Certo. Invece quest'anno avete fatto una decina di segnalazioni in procura. In quale procure? La procura di Busto Arsizio. Tutte a Busto Arsizio? Che poi sono state inviate per competenza a Catanzaro e a Catania. Quindi anche quest'ultima inchiesta parte dalla vostra segnalazione? Non parte dalla nostra segnalazione, ma si interseca con la nostra segnalazione, come è scritto negli atti da parte della Procura di Catania. Da cosa nasce una vostra segnalazione? Cos'è che vi insospettisce e vi fa arrivare ad una segnalazione in Procura? Se in un giorno l'azione della Apple passa da 100 a 2, senza che vi sia un motivo apparente, evidentemente c'è qualcuno che sta cercando di bruciare il mercato. Lo stesso avviene con le quote delle scommesse. Quindi sta a significare che i prezzi impazziscono, vanno contro la matematica e quindi vuol dire che siamo di fronte a un'anomalia. C'è il fondato sospetto che siamo di fronte a un tentativo di alterazione. Voi li guardate dai registri delle scommesse? Come li guardate? Come li osservate? dalle quote, dalle quotazioni. E la procura di Cremona, sulla base delle nostre segnalazioni, ha scoperto che determinate partite erano truccate. Lei in che ruolo aveva? Io ero il direttore dell'ufficio legale di un bookmaker e ho collaborato come, tra virgolette, consulente per la procura di Cremona. Okay. Ho fornito una serie di partite alla procura di Cremona, tra cui Lazio-Genova, Lecce-Lazio, quelle famose. Quindi nel momento in cui le vostre segnalazioni sono cambiate, sono passate dalle istituzioni europee alle procure italiane, esatto, diciamo, il riscontro è stato immediato. Nessuno può permettersi di dire in questo momento che le nostre segnalazioni non fossero fondate, mettiamola in questo modo. E poi le pene mai troppo severe, una riforma degli uffici investigativi della FIGC mai portata davvero a termine, un cambio di rotta insomma mai davvero iniziato, tanto da far ripetere gli scandali dagli anni 80 ad ora, dalla piscina di Forcella dove fu immortalato Diego Armando Maradona al ciclone di Calciopoli fino alle combine di Serie B o Lega Pro. E ora, per la prima volta, si propongono misure concrete che mettono mano al portafogli, dalla confisca dei beni all'aggressione dei patrimoni dei calciatori che scommettono, fino alla responsabilità diretta delle stesse società. È dunque la svolta? Gli esperti in realtà e gli sportivi restano in realtà pessimisti. Lo sentiamo nella seconda parte di Storiacce. Storiacce. Le inchieste del 2016. Ex giocatori che organizzano le combine, che siano zingari o si chiamino in altro modo, calciatori che si vendano, che siano ribattezzati treni o con altre espressioni, società che sanno ma che girano lo sguardo altrove. Dopo ripetuti scandali e ancora più allarmi, il meccanismo del calcio scommesse ormai è chiaro a tutti, tanto che il presidente della Serie B ha proposto delle misure precise al capo dell'Authority Anticorruzione, Raffaele Cantone, che tra l'altro da magistrato più volte si è occupato proprio di truffe e di calcio a Napoli o degli interessi dei boss anche nelle scommesse, fin dai tempi in cui il Pibe d'Or veniva immortalato a bordo della piscina dei boss nel centro storico più degradato del capoluogo partenopeo. Il calcio è uno strumento che mette insieme una grande capacità di generare consenso e quindi potere, ma anche una grande capacità di far muovere denaro e fare affari. Sia chiaro, io non credo affatto che Maradona sia andato a casa di Giuliano per ragioni criminali, ma Maradona va a casa di Giuliano in pieno centro storico di Napoli, a Forcella, in una zona super degradata, all'esterno assolutamente fatiscente, nelle facciate esterne delle case, e poi all'interno con queste case, con le piscine a conchiglia, con le vasche idromassaggio. Per il Giuliano, portare in quel momento Maradona a casa loro, e Maradona in quel momento è forse il calciatore più famoso del mondo, è una manifestazione incredibile di potere. Ma Giuliano, dopo che si è pentito, ha spiegato come era lui il vero inventore del calcio scommesse all'epoca illegale. Che cosa vi raccontò Giuliano? Giuliano racconta che in quel periodo il calcio scommesse riusciva a rendere fino a 2 miliardi e mezzo al mese. Stiamo parlando di una cifra che era difficile racimolare con le estorsioni e che quindi consentiva alla Camorra, tutto sommato, di poter persino rinunciare alla violenza per poter gestire il calcio scommesse. Lo schema che vi raccontò Giuliano all'epoca, lei in qualche modo lo ritrova anche nelle ricostruzioni che indagini più recenti sul calcio scommesse hanno portato alla luce? Credo che la situazione è completamente cambiata, c'è un elemento di un fattore nuovo che ha cambiato completamente tutto. Il calcio scommesse è stato legalizzato. Devo dire che questa legalizzazione è stata assolutamente rapida. Questo ha portato le mafie ad essere interessate al calcio scommesse sotto due diversi presupposti. Da un lato la gestione delle sale scommesse, delle agenzie che si occupano delle scommesse, che sono un incredibile strumento di guadagno, ma non dimentichiamo anche un incredibile modo per riciclare il denaro, per ripulirlo. E l'altro aspetto è la possibilità di giocare anche sui mercati internazionali facendo grossi affari e grossi guadagni. Cantone, Andrea Boldi, presidente della Seconda Lega, ora propone nel pacchetto di misure la confisca dei beni dei tesserati, anche in caso di patteggiamento, l'aggressione ai patrimoni dei calciatori e la responsabilità giuridica diretta delle società dove viene commessa la frode sportiva. Un'accelerazione che torna su proposte in realtà già formulate ma mai prese davvero in considerazione. Perché non si vuole cambiare nonostante i proclami? Queste misure qui, ad esempio, secondo Francesco Baranca di Federbet, l'associazione che monitora le scommesse, potrebbero essere effettivamente dei validi deterrenti. Ma saranno applicate? Allora, se io vado a rubare in un supermercato e dopo 3 settimane sono fuori, ovviamente tendenzialmente potrei andare ancora a rubare nello stesso supermercato. Se poi il direttore del mio stesso supermercato viene a dirmi ma no dai, fa niente, chi controlla è sbagliato, io se sono un dipendente continuo a farlo, no? Quindi le pene troppo basse che danno un senso di impunità. E istituzioni che tendono a proteggere il sistema e non a cambiarlo. Quanto secondo lei gioca anche il rapporto tra le società, il mondo delle tifoserie, il mondo delle scommesse? Cioè ci sono anche degli abbracci, diciamo, troppo stretti per far venire fuori anche il gioco illecito? Ma io credo che molte società siano pulite e siano vittime dei propri giocatori. Io ho avuto la fortuna di collaborare con società che sono state colpite fortemente dal calcio scommesse come l'Atalanta, che ha cambiato completamente registro e ora la situazione è assolutamente migliore. Nell'inchiesta di Catania è coinvolto il Varese. Noi avevamo fatto autodenunciare il Varese per la partita con il Catania. Ha detto ai suoi giocatori, qua qualcuno sta facendo il furbo. Ci sono altri casi secondo di società... Caso, anche il Novara, sempre sulla base della nostra segnalazione, che era autodenunciato. Voi avevate segnalato alle società l'esistenza di anomalie sulle scommesse che riguardavano le loro partite. A quel punto che cosa è successo rispetto a queste società? Perché in qualche modo questo potrebbe essere un precedente per favorire una collaborazione da parte delle società nella lotta alle scommesse. Mi fa piacere che lei l'abbia capito in 5 minuti e alcune persone non l'abbiano capito. Beh, perché questo è il classico meccanismo che si fa nelle inchieste per andare a sconfiggere, diciamo, la corruzione o i rapporti di mafia. Esatto. Novara, a fronte della, tra virgolette, mutamento di indirizzo, ha ricevuto uno sconto in serie di giustizia sportiva di 10 punti. Quindi, come avviene adesso, come si vuole adesso fare per la corruzione, per cui chi collabora con la giustizia riceve uno sconto rispetto alle pene, così allo stesso modo si vuol fare, si potrebbe fare con le società di calcio, chi si autodenuncia e collabora nello far scoprire le scommesse illecite evita un declassamento troppo forte, diciamo. Società come l'Atalanta e l'Udinese, io penso che non avranno più di questi problemi, perché i propri calciatori hanno capito che qualcuno li sta controllando e non faranno mai più niente di sbagliato. Quindi l'effetto deterrente diventa ancora maggiore. Ecco, ma che cosa pensa di una proposta come misure deterrenti, la confisca dei beni nei confronti dei tesserati, anche una aggressione ai patrimoni sia dei calciatori che scommettono e poi anche accuse rivolte alla stessa società, appunto per la famosa legge 231, ossia la legge sulla responsabilità d'impresa. Mi trovano concorde, ma finché non agiremo a livello preventivo e finché queste misure saranno adottate da chi fino adesso non è stato in grado di controllare, non cambierà nulla. Si va a mettere mano direttamente nel portafogli sia dei calciatori che delle società. Assolutamente sì, ma secondo me l'aspetto preventivo rimane sempre più importante. Prevenzione in che modo? Tramite la formazione dei calciatori e tramite il monitoraggio costante di tutte le quote di tutte le partite. Questo significa che le società hanno la possibilità di controllare? Certo che ce l'hanno. E se fino adesso non l'hanno fatto, è per quale ragione? Convenienza? E anche mancanza di conoscenza di come funziona questo tipo di mondo. Chi è che soprattutto coordina le partite e le scommesse, quelle più pesanti? Sono ex calciatori, procuratori, scommettitori. Ma gli zingari, alcuni erano ex giocatori. Dedic era un ex giocatore, altri erano amici di Dedic. Lei è ottimista rispetto alla possibilità che qualcosa cambi oppure vede che il calcio italiano è troppo in qualche modo incardinato in certi meccanismi sia leciti che illeciti? Assolutamente pessimista. Le procure possono fare le inchieste, ma non possono incidere sulla mentalità del calcio. Proprio questa mentalità del mondo del calcio spiegherebbe forse un ripetersi di scandali nei decenni. Storie diverse, ma stesso comun denominatore dagli anni 80 a Calciopoli fino alle ultime del calcio scommesse. Che dici, Dario? Dario Ricci, collega di Radio 24 che si occupa appunto di sport. Raffaella, altro che anni 80, se pensa che il primo scandalo di una certa dimensione è datato 1927 in un famigerato derby della Mole tra Juventus e Torino, sembra vi fu una presunta combine che costò in quel caso lo scudetto ai Granata, e si passa attraverso altri piccoli grandi scandali prima di arrivare al grande scandalo del calcio scommesso appunto dell'80. Sì, la mentalità spesso è la stessa, il senso di impunità è lo stesso, ma cambiano anche però gli strumenti. Ma come sono andate a finire quelle vicende, diciamo, del passato più lontano? E poi staremo a vedere adesso queste ultime. Come accennavi, molte cose sono chiaramente cambiate, chiaramente ci sono anche molti più reati anche proprio previsti dal codice penale. Basti pensare che proprio in relazione al calcio scommesso e allo scandalo del 1980, la giustizia ordinaria praticamente prosciolse tutti, se non uno o due protagonisti per qualche aspetto minori. Perché? Perché mancavano gli strumenti legislativi per riconoscere quei reati. Proprio dallo scandalo dell'80, ora questi strumenti ci sono, così come in qualche modo il fatto che i più recenti scandali e i più recenti reati emergano alla luce del sole vuol dire che alcuni strumenti di controllo stanno funzionando. Il passo ulteriore, quello decisivo, è il fatto che sia la giustizia sportiva che quella ordinaria in primis accolgano poi queste segnalazioni e quindi agiscano di conseguenza, sempre ricordando che i tempi e gli strumenti delle due giustizie sono assolutamente diversi fra loro. Ma le storie di frodi nello sport, proprio laddove si proclama l'onestà, si ritrovano ancora indietro nel tempo, fino alla stagione del mito. Linea allora alle mitiche storiacce di Giorgio Geranò, professore di greco all'Università di Trento e autore per Sonzogno degli eroi della guerra di Troia. Mitiche storiacce. Tutti abbiamo sentito parlare dello spirito olimpico. Il barone de Coubertin, il fondatore delle Olimpiadi moderne, diceva che consisteva in lealtà, correttezza, rispetto delle regole degli avversari, e diceva la sua celebre frase: l'importante non è vincere ma partecipare. Tutto questo il barone lo attribuiva agli antichi greci. Ebbene, non è vero nulla. Per i greci l'importante era vincere, e già arrivare secondi era una sconfitta, e per vincere si era pronti a tutto. Anche a barare, a truffare, a corrompere. Ci sono molte notizie storiche su gare sportive truccate, su corruzioni di giudici, soprattutto nel campo delle corse dei carri, che per gli antichi erano uno sport popolare un po' come da noi il calcio, con tifoserie a volte molto violente e con persone disposte a investire molti soldi nel prestigio di una vittoria in queste gare. Ma basti pensare che proprio l'eroe che ha fondato i giochi olimpici, l'eroe che ha corso la prima gara di carri ad Olimpia, vinse grazie a una combine, vinse grazie a una truffa. Questo eroe si chiamava Pelope, doveva correre una gara dei carri, era una gara naturalmente mitologica, fantastica, dove in palio c'era la vita stessa dei concorrenti, c'era la mano di una principessa, ma al di là di quello è interessante sapere che Pelope vinse corrompendo l'auriga, il guidatore del carro del suo avversario. L'auriga sabotò il carro, l'avversario andò a schiantarsi e Pelope vinse la sua gara. Se quindi i giochi olimpici già nel mito sono incominciati così, potete capire che il futuro era già abbastanza prevedibile. Grazie dunque a Giorgio Geranò. Infine la segnalazione arriva da Milano, dove rinasce il Pala Iseo, un centro sportivo strappato alle cosche e ristrutturato dal comune dopo gli incendi dolosi del 2011. Se anche voi avete segnalazioni da sottoporci o se volete in qualche modo commentare questa puntata di Storiacce dedicata al ripetersi degli scandali sul calcio scommesse, scriveteci sulla pagina di Storiacce sul sito radio24.it, dove potete anche riascoltare questo come tutte le altre puntate, oppure ci trovate ancora sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.